Agora in onda. Agora in onda. Rubrica di informazione giuridica e attualità a cura dell'avvocato Marco Mampieri. Do il benvenuto alla dottoressa Marcella Faina, grazie, come dicevi grazie, tu, grazie. Professoressa presso l'Università di Tor Vergata per Scienze dell'Alimentazione e Microbiologia, già dirigente medico del Servizio di Igiene degli Alimenti dell'ASL Roma 5. Abbiamo scelto, buongiorno Marcella, buongiorno questo argomento abbastanza importante che ci tocca quotidianamente, perché la salubrità e l'igiene degli alimenti è qualcosa che riguarda intimamente tutti noi, perché quotidianamente abbiamo a che fare con cibi, alimenti, sia a livello domestico sia a livello pubblico, quindi ristorazione. E quindi stamattina dai microfoni di Radio Onda Libera volevamo fare anche una panoramica insieme a te, vista la tua lunghissima esperienza in materia, rispetto a quelli che sono le maggiori problematiche o i consigli che possiamo dare ai nostri radioascoltatori, sì. Perché diamo sempre per scontato, ne abbiamo parlato più volte dai microfoni di Radio Onda Libera, del diritto alla salute. La materia che riguarda l'igiene e la salubrità degli alimenti attiene comunque a questo aspetto, e quindi dare dei consigli utili ai nostri radioascoltatori su un argomento spesso sottovalutato. Lo facciamo in questa rubrica di informazione giuridica, perché questa materia rientra poi nel novero della salute pubblica, e quindi approfittiamo per dare alcune informazioni che tu, dalla tua esperienza, come dicevamo, potrai sicuramente dare ai nostri radioascoltatori. Certo. E quindi partiamo, diciamo, da questa nostra chiacchierata, questa conversazione odierna, illustrando innanzitutto che cos'è l'igiene alimentare, insomma. Quindi cominciamo a far capire ai nostri radioascoltatori, dopo aver scherzato sul nuovo governo, ma soprattutto augurando al professor Conte i migliori auspici per questa per questa nuova esperienza. Soprattutto adesso ritorniamo invece al tema odierno, con quello che è la proposta che abbiamo sottoposto, che sottoporremo oggi ai nostri ascoltatori. Quindi parliamo di igiene alimentare. D'accordo. Allora, buongiorno a tutti intanto, e grazie per questo invito, perché insomma mi piace di esporre queste, così di trattare con gli amici ascoltatori questi argomenti. Dunque, che cos'è l'igiene alimentare? Siamo tutti d'accordo nel considerare che gli alimenti, come tutto ciò che ci circonda, non sono sterili, contengono una certa quantità di microrganismi. Intendendo per microrganismi virus, batteri e funghi, e questi appunto organismi che non sono visibili a occhio nudo. Questi microrganismi, che sono naturalmente presenti negli alimenti e comunque intorno a noi, non sono tutti patogeni, per fortuna, e spesso sono indifferenti per la nostra salute. Però quando noi mangiamo un alimento, insieme all'alimento introduciamo questi microrganismi, e quindi dobbiamo cercare di fare in modo che siano nel quantitativo minore possibile, perché ovviamente fra di essi ce ne possono essere alcuni patogeni che noi andiamo a mangiare, a ingerire, e potrebbero farci ammalare. Quindi il problema è come, cioè l'igiene degli alimenti riguarda appunto il modo con cui noi possiamo contenere questa carica microbica, abbatterla in parte, perché abbatterla completamente ci vorrebbe una sterilizzazione che noi normalmente non facciamo, facciamo una semplice cottura, quindi abbattiamo questa carica microbica. E poi il grosso problema è quello di non ricontaminare gli alimenti una volta puliti, lavati, cotti o comunque ben sistemati, pronti al consumo, di non ricontaminarli. E poi quindi adesso lo vediamo. Questa è la parte, quindi hai detto che l'igiene degli alimenti corrisponde proprio agli agenti, anche ai microrganismi che sono contenuti in sé, non dobbiamo apportarli con le nostre, quindi adesso ci spiegherai qual è il nostro, perché volevo soltanto dare un punto, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa appunto che il fattore di rischio principale nella diffusione delle tossinfezioni alimentari è riconducibile proprio al mancato rispetto da parte degli addetti, quindi anche noi quando siamo in cucina, certo, o le persone che invece sono addette nell'ambito della ristorazione pubblica, la manipolazione è riconducibile al mancato rispetto da parte degli addetti alla manipolazione degli alimenti di norme e procedure che riguardano, esatto, l'igiene della persona. Esatto. Quindi quello che dicevi tu, la contaminazione anche di alimenti già puliti, lavati oppure che hanno subito un processo, o cotti, che hanno subito un processo di abbattimento della carica microbatterica, può essere potrebbe influenzata dal nostro comportamento. Esatto. Allora vediamo un po' come spesso può capitare questa maggiore contaminazione, ricontaminazione. Il termine esatto è ricontaminazione. Allora, tu sei un uomo di legge, quindi ti vorrei dire anche che tutto ciò è poi previsto dal pacchetto igiene del 2004, che insomma recepisce dei regolamenti CE della Comunità Europea, e vabbè, senza entrare troppo. Comunque, praticamente la contaminazione degli alimenti consiste nel trasferire dentro un alimento quei patogeni, quei microbi che non ne facevano parte. Quindi una parte di microbi sono propri dell'alimento, come in tutto quello che ci circonda, però se noi abbiamo le nostre mani oppure gli attrezzi, il coltello con cui andiamo a tagliare un alimento, un piano d'appoggio su cui lo mettiamo magari dopo averlo cotto, facciamo un esempio, un roast beef, una volta cotto lo appoggiamo per tagliarlo su un piano d'appoggio che non è perfettamente pulito, ovviamente quei microbi che stanno sul piano d'appoggio riandranno a contaminare l'alimento. Quindi questo vale anche a casa, quindi diamo dei anche consigli a casa, certo, ai nostri radioascoltatori, alle mamme, ai papà che cucinano, certo, quotidianamente a casa, perché spesso questo fenomeno lo imputiamo sempre alla ristorazione, esatto, esterna, esatto, alle mense, forse è molto però più molto, frequente, molto più frequente anche a casa. Quindi spieghiamo, ecco, come i genitori possono adeguatamente rispettare, certo, le norme, delle minime norme igienico-sanitarie in modo tale da garantire dei pasti da un punto di vista igienico-sanitario tranquilli anche per la propria famiglia. Quindi, certo, sono errori che magari commettiamo noi. Stefano sicuramente li avrà commessi, li commetterà tutti i giorni. Se cucina, il suo disappunto. Se cucina, ma guarda, a volte sono più le nonne, no? Le nonne, le mamme, ma le nonne soprattutto, che per esperienza già si operano benissimo e non creano problemi. Insomma, forse più noi giovani che non abbiamo quell'esperienza di cucina, eccetera. Dunque, guarda, una cosa molto importante che noi facciamo fare nella ristorazione pubblica, non so, io dico ristorazione perché adesso, parlando anche di casa, ci stiamo interessando forse più di questo, della ristorazione, ma in realtà gli alimenti, la manipolazione degli alimenti riguarda tanti ambiti, per esempio anche una ditta che produce alimenti, oppure una ditta che un magazzino all'ingrosso che si occupa dello stoccaggio, chi trasporta alimenti, e tutti quanti devono seguire delle norme comportamentali abbastanza severe, ma insomma importanti. Però se parliamo di casa, chiaramente ci riferiamo alla ristorazione, cioè alla preparazione di cibi per il consumo casalingo. E la cosa, diciamo, fondamentale che noi facciamo fare appunto nel pubblico, ma che si potrebbe fare e sarebbe bene fare anche nel privato, è il percorso in avanti, cioè dal più sporco al più pulito. Cioè possiamo strutturare la cucina, chiaramente ripeto, non so, in una ditta la produzione, comunque parliamo della cucina, in modo tale che si possa passare dal frigorifero, dove ci sono contenuti gli alimenti sporchi, diciamo, cioè l'insalata da lavare, la carne cruda, fino alla cottura e impiattamento, seguendo un percorso in avanti senza incroci, cioè dal frigorifero, accanto al frigorifero un piano di lavoro per poggiare gli alimenti sporchi, un lavandino per pulirli, sistemarli, un altro piano di lavoro per appoggiarli già puliti e lavati, la cottura, che è la parte clou, diciamo, in cui vengono abbattuti parecchi patogeni o anche comunque microrganismi, e un altro piano di lavoro per impiattare, e poi si serve. Se questo percorso in avanti è lineare, non ci sono incroci sporco pulito, cioè io non prendo l'insalata, poi attraverso tutta la cucina per andarla a lavare dall'altra parte, poi torno indietro perché il fornello ce l'ho magari vicino al frigo, quindi devo tornare indietro e poi non so dove mettere le cose pulite, e in questo modo si ricontaminano sicuramente. Però quando non è possibile avere questo percorso in avanti, perché ormai la cucina è strutturata, bisogna averlo mentale, cioè avere una divisione della cucina in modo tale che ci sia una zona sporca e una zona pulita. Quindi una zona dove io metterò soltanto un piano di lavoro. È un piano di lavoro, ma anche il frigorifero è la zona sporca, se consideriamo. È la più sporca della cucina, diciamo, il frigorifero. Mettiamo, esatto. Ma per rispondere a Marco, per no, questo frigorifero, questo parlo a me stesso, purtroppo, perché il frigorifero è la parte più sporca, perché tanta gente pensa che con il freddo abbatte i microbi e invece non è così. Aumentano, esatto, nel frigorifero. No, diciamo che si fermano. Però beh, se noi stanno lì, però stanno lì, cioè se noi mettiamo in frigorifero, guarda, se partiamo dall'inizio, no? Dobbiamo avere intanto fare la spesa comprando cibi, diciamo, di buona qualità, certo, perché il frigorifero non è che migliora la qualità dei cibi, tutt'al più la mantiene. La mantiene. Quindi, certo, se noi mettiamo in frigorifero un prodotto scadente, lo andremo scadente a riprendere rimane. Scadente. Cioè, questo... Adesso, vabbè, con questo nuovo governo non ci facciamo i conti in tasca, però comunque dobbiamo sapere che quello che compriamo è colpa lo ritroviamo. Del governo, anche il frigorifero, no? Beh, forse sì. Del frigorifero. Il paniere, diciamo. Il paniere. No, vabbè, a parte gli scherzi, però quello che noi mettiamo nel frigo è quello che andremo a tirare fuori. Certo. Quindi più è buono il prodotto di qualità e più troveremo un prodotto di qualità. Giustamente il freddo mantiene e blocca la crescita microbica, certo, e quindi non peggiora, però non migliora. E soprattutto evitare, per esempio, cibi molto freschi tipo un'insalata, di andarla a consumare dopo una settimana che l'abbiamo conservata in frigo, perché si perdono tutte le vitamine, che è la cosa principale per il quale alla fine mangeremo questa insalata. Certo, quindi consumarli e non fare spese per mesi, no? Farle, no, non voglio dire giornalmente, ma insomma in breve tempo consumare quello che si è anche acquistato. Se si consiglia farle giornalmente per tanti motivi, insomma. L'ideale sarebbe quello, però è tutta una catena, no? L'igiene è tutta una catena, perché se utilizzi un frigo classico sicuramente hai più rischi di avere microbi. Se utilizzi un no frost, che non ha umidità all'interno, certo, ma bensì certo, mantiene nella stessa situazione il cibo messo all'interno, dura un po' di più. Tipo l'insalata, ad esempio, se lo metti in un frost difficilmente diventa come quello classico, non si rovina. però ci sono... le vitamine un po' tendono a perdersi. Sì, ma certo, quello è normale. Anche quello con la normale. Luce stessa si degradano, quindi beh, bisognerebbe. Però qui torniamo al discorso della nonna, certo, che non aveva certo il frigo no frost. Però, per esempio, per salvaguardare l'igiene, è vero che il frigo è la parte forse più sporca della cucina, però poi nel frigo noi ci mettiamo i cibi cotti, ci mettiamo certo una crema, un budino, certo, e quindi lì è importante che non ci sia questa ricontaminazione. Come facciamo? Dobbiamo impacchettare, quindi non mettere un cibo cotto tale e quale, ma metterlo nei contenitori chiusi, in modo che non possano andarci i microbi, per esempio, dell'insalata, della carne. Eccoci qua, allora siamo tornati con Agora in Onda in questa puntata di questo venerdì 1 giugno 2018. Oggi stiamo parlando dell'igiene e la salubrità degli alimenti con la dottoressa Marcella Faina in studio, che ci è venuta naturalmente a parlare proprio di questo argomento insieme al nostro avvocato Marco Vampieri. A voi la parola, prego. Eccoci Stefano, rientriamo dopo la pausa pubblicitaria per parlare oggi di educazione civica, di educazione agli alimenti, perché l'alimentazione è uno dei più importanti tra i diversi fattori che concorrono ad assicurare la tutela della salute e della qualità della vita, e quindi lo stiamo facendo insieme alla dottoressa Marcella Faina, come hai detto tu, professoressa a contratto per presso l'Università Tor Vergata di Roma per scienze dell'alimentazione e microbiologia, ma per tanti anni è stata dirigente medico del servizio di igiene degli alimenti dell'ASL Roma 5, quindi della nostra ASL di riferimento, e quindi dalla sua lunga esperienza ci sta dando dei consigli. Abbiamo visto come che cos'è innanzitutto l'igiene degli alimenti, come evitare le maggiori contaminazioni, l'abbiamo fatto partendo da un esempio domestico, no? Quindi cercando di dare ai nostri radioascoltatori anche la possibilità di capire come anche all'interno delle nostre abitazioni riuscire a fare meglio rispetto alla qualità degli alimenti che mangiamo. E adesso invece ci soffermeremo anche sull'illustrare anche per gli ascoltatori pubblici, quindi che hanno bar, attività, come migliorare anche l'aspetto verso i loro clienti sul prodotto alimentare e quindi quali sono le disposizioni, tra virgolette, normative che tutelano la salute e l'integrità pubblica nell'ambiente pubblico. Quindi qual è questo codice di autocontrollo, se ce ne vuoi parlare, e come funziona? Allora, guarda, diciamo che verso la fine degli anni 90 c'è stato proprio un cambio di rotta nella, nell'attività un po' dell'ASL, diciamo, nella concezione del controllo per quanto riguardava gli alimentaristi, cioè si è passato da un controllo un po' punitivo, come si faceva prima, alla responsabilizzazione dei titolari, dei responsabili del settore alimentare. Quindi è stato imposto, tramite appunto quel pacchetto igiene che ti dicevo prima, e già precedentemente col decreto legislativo 155 del 97, è stato imposto di avere un piano di autocontrollo, cioè praticamente il titolare dell'attività, il responsabile del settore alimentare, deve diciamo individuare dei punti critici nella sua attività, critici per la salute pubblica, in cui si potrebbero verificare dei problemi per la salute pubblica, e tenere sotto controllo questi punti critici. Erroneamente viene chiamato HACCP, ma la dizione corretta è piano di autocontrollo. HACCP è il metodo con cui si attua il piano di autocontrollo, tenendo appunto sotto controllo, scusate la ripetizione, delle situazioni a rischio, dei punti critici. Quando noi andiamo a fare le ispezioni, i sopralluoghi, mentre prima ci limitavamo a vedere se il locale era pulito, se portavano i grembiuli, le cuffiette, eccetera, adesso, oltre a fare tutto ciò, ovviamente, ad aprire il frigorifero, andare a vedere quello che c'è dentro, come viene mantenuto, andare a vedere i bagni, se sono puliti, insomma la solita ispezione che si è sempre fatta, adesso noi ci soffermiamo molto su questo piano di autocontrollo, perché quello di prima era una fotografia del momento, cioè noi si entrava in questo locale e avevamo una fotografia se era igienico o meno. Con il piano di autocontrollo noi andiamo invece a vedere, a valutare la modalità operativa che c'è in quel locale, quindi come il proprietario, il gestore e i dipendenti mettono in atto dei comportamenti che sono più o meno giusti per dare igienicità nel prodotto finito. E tutto questo è anche, diciamo, normato, consigliato, ma poi normato nei manuali appunto di comportamento, di corretta prassi igienica, cioè come comportarsi correttamente in questi settori. Inoltre gli operatori alimentari, mentre prima facevamo loro il libretto sanitario, cioè il medico controllava puntualmente, ripeto, una specie di fotografia, se la persona era sana o malata, perché ovviamente se stava male non era consigliabile che operasse nel settore alimentare, magari con la tosse, una dermatite, eccetera. Però una volta fatto il libretto, la persona poteva magari ammalarsi il giorno successivo e il medico non lo sapeva, non l'avrebbe saputo. Adesso invece si è scoperto, insomma si è dedotto che è meglio, più che stare bene, comportarsi bene. Quindi gli operatori alimentari devono seguire dei corsi, che poi vanno ripetuti periodicamente, su come comportarsi nella manipolazione del cibo. Quindi da quello che ci hai detto è cambiato l'approccio rispetto alla, certo, la modalità di controllo. Prima, certo, si tendeva a fare una fotografia istantanea di quello che si trovava al momento del sopralluogo nei locali pubblici o aperti al pubblico che trattavano alimenti e bevande. Oggi invece, oltre a questa fotografia istantanea, certo, che viene fatta al momento, ovviamente, del sopralluogo, del controllo, viene fatta questa autoregolamentazione, quindi questo piano di autocontrollo che serve a individuare quelli che possono essere i punti critici nel sistema di trasformazione degli alimenti. Esatto. Per esempio, se noi andiamo in un ristorante alle 11 di mattina, non sappiamo come è avvenuto il rifornimento degli alimenti, lo stoccaggio, se sono stati messi subito in frigo oppure lasciati per ore così all'aria aperta. E invece nel piano di autocontrollo c'è scritto dall'approvvigionamento tutti i vari processi, e quindi noi sappiamo che in quella struttura ci si comporta in un certo modo, e poi ovviamente verifichiamo se è vero, perché magari... Quindi dalla carta poi si fa la verifica in concreto, esatto. Però questo piano di autocontrollo serve a mappare tutte le fasi che portano l'alimento in questo caso facciamo l'esempio di un piccolo ristorante o di un, certo, di un bar, dallo scarico del fornitore, esatto, fino all'ingresso nei frigoriferi o nei magazzini del ristorante, certo, quindi dire, tracciare qual è il percorso che viene compiuto, e su questo poi c'è la verifica da parte dei preposti, in questo caso la ASL, ma anche i NAS, anche i NAS, che servono a tutelare appunto la nostra salubrità, e perché, come dicevamo, è uno dei fattori di contaminazione più importanti, è proprio quello derivante dagli alimenti. Quindi questo, diciamo, per fare una panoramica ai nostri radioascoltatori su come funziona. Sicuramente chi ci ascolta dai bar, dai ristoranti, lo sa già, ma lo ripetiamo, certo, a beneficio di tutti, perché questo è una garanzia per tutti quanti, consumatori, esatto, in primis, ma anche per chi correttamente gestisce la salute delle persone attraverso l'attività quotidiana di esercizio pubblico che somministra alimenti e bevande. E quindi, a maggior ragione, è un sintomo anche di, è un sinonimo anche di qualità, del loro agire, certo, quotidiano, certo. Quindi ci affidiamo a questi professionisti perché rispettino le regole e lo facciano nell'interesse collettivo. Sì, esatto. Poi alcuni di questi punti critici sono talmente critici che devono essere tenuti proprio sotto controllo, quindi è prevista anche un monitoraggio, quindi bisogna trascrivere per esempio le temperature dei frigoriferi per evitare che possano rompersi, magari il frigorifero si rompe, la temperatura scende. Non è niente di strano, cioè è quello che un bravo ristoratore ha sempre fatto negli anni, però adesso cambia, che deve essere scritto, perché al controllo, sì, magari ce lo poteva raccontare a voce, però se sta scritto la ASL verifica quello che lui realmente poi fa, insomma, nella sua attività. Quindi una tracciabilità dei propri processi interni che servono a garantire, almeno nei tutta la filiera, quello che è l'aspetto igienico-sanitario degli alimenti che quotidianamente trattano e che servono nei piatti che mangiamo quando ci troviamo al ristorante o nei pubblici esercizi o nelle mense. Le mense scolastiche utilizzano la stessa per certo, parlare anche certo, alle mamme, certo, che mamme e papà, insomma, affidano i propri figli agli certo, istituti scolastici dove ci sono delle mense, e quindi queste regole vanno rispettate anche all'interno, esatto, di questi contesti, così come nelle mense abbiamo un'attenzione maggiore, perché io parlo come se ancora fossi dipendente dell'ASL, in realtà è quasi un anno che sto fuori, però la Regione Lazio ci dà delle indicazioni su come e quando, la frequenza con cui vanno fatti i sopralluoghi, e chiaramente c'è un'attenzione, grande attenzione alle mense, che vanno monitorate almeno una volta l'anno, vanno controllate anche di più a seconda se poi è una situazione rischiosa, cosa che per esempio è più libera per esempio su una frutteria, dove l'alimento non è a rischio perché è già sporco di per sé, quindi è un alimento molto poco rischioso, e anche l'utenza che si approccia è la più varia, ma insomma l'utenza di una mensa scolastica ovviamente è più sensibile, e quindi c'è un'attenzione maggiore alle mense, ai ristoranti, insomma abbiamo proprio, hanno proprio l'ASL delle tabelle con la frequenza dei sopralluoghi, e la mensa è una delle più frequenti, le mense scolastiche è una delle più frequenti. Questo per far comprendere anche ai radioascoltatori che l'attività, esatto, di prevenzione, certo, c'è sempre, e quindi quando ci sono bambini che mangiano nelle scuole, l'attenzione dell'istituzione è massima, soprattutto anche attraverso questi controlli incrociati. Poi vengono fatti anche dei campioni sia sui prodotti finiti già pronti al consumo, perché chiaramente quello è il massimo del rischio, un prodotto pronto al consumo abbiamo detto che non deve essere assolutamente ricontaminato, quindi deve avere una carica microbica bassa, specialmente se è stato cotto. E quindi noi campioniamo, andiamo proprio anche nelle scuole, nei ristoranti, insomma, e campioniamo proprio gli alimenti già pronti al consumo, quindi quasi da mangiare, da impiattare e da mangiare. Come invece campioniamo al CAR, che è il centro agroalimentare che rifornisce, insomma, uno dei più grandi d'Italia, e andiamo a controllare frutta e verdura, perché ci rimane più comodo, cioè invece di andare nelle varie frutterie dove magari si trovano tre piante di insalata, andando al CAR, lì è una vendita all'ingrosso, quindi abbiamo più materiale da campionare, e sono fatti periodicamente questi controlli, soprattutto per vedere i fitosanitari, quanti, insomma, se sono stati usati in modo corretto, se ci sono residui di fitosanitari in quello che andiamo a consumare. i funghi, abbiamo degli ottimi micologi che a occhio, vedendo passare una cassetta di funghi, è successo veramente in lontananza, il micologo si è accorto che fra i vari funghi ce n'era uno velenoso, una Amanita phalloides, ha bloccato tutto, sono stati campionati, insomma è stato quella mortale, non è quella è mortale, sì. E se n'è accorto con l'occhio clinico, potremmo dire, che ha, vedendo questa cassetta in mano a un operatore che passava, e comunque vengono campionati questi funghi. E poi vorrei ricordare, forse questo è utile, che alla ASL c'è sempre a disposizione un micologo per i funghi che andiamo a cogliere nei boschi e che poi non sappiamo con sicurezza, no? Se sono... Quindi in caso di incertezza si può contattare, si può anche contattare il servizio, di igiene degli alimenti e prendere appuntamento col micologo per avere, insomma, la conferma se sono buoni o velenosi. Quindi... O altrimenti venite con me e vi dico quali sono quelli buoni. Ma ormai lo sa. La parola dell'esperto. Ormai chi coglie funghi, insomma chi va a raccogliere funghi, lo sa, perché devono fare dei corsi e quindi imparano... ufficialmente imparano quali sono poi le esperienze, insomma. Però se ci sono dei dubbi, e specialmente se questi funghi poi vanno nella ristorazione pubblica, lì ci deve essere proprio certo, la certificazione che sono commestibili. Quindi controllo pubblico rispetto a quella che deve essere la catena e la salubrità degli alimenti, anche attraverso controlli incrociati, responsabilità da parte del gestore di un pubblico esercizio o di una struttura aperta al pubblico che somministra alimenti e bevande, che testimonia la professionalità dell'esercente, del gestore. Sì. Quindi da questo punto di vista sono questi fattori che disciplinano questo codice di autocontrollo, sì, che abbiamo descritto in maniera sommaria, ma sicuramente per far comprendere un pochettino quella che è tutta questa materia, spesso sconosciuta e più, ma come ci dicevi, che invece ecco sono frutto di controlli puntuali che vengono fatti a diversi livelli. Quindi questo per rassicurare. Spesso però, ovviamente, come dicevamo all'inizio, alcune delle incongruenze le facciamo magari a casa. Certo. Questo per fare un po' una panoramica generale di quando si punta sempre il dito sul pubblico, quando poi a casa magari non si fanno le cose in maniera corretta. Quindi in questa rubrica di informazione oggi ci occupiamo di economia domestica, diciamo così, in senso lato, cerchiamo di dare anche questi consigli. E quindi ti chiedo quali strumenti possono essere utilizzati per prevenire la contaminazione degli alimenti. L'hai già detto all'inizio della nostra trasmissione, però ripetiamolo per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso. Sì, quindi intanto avere proprio strutturalmente la cucina organizzata con un percorso in avanti dell'attività, dalla zona più sporca, che è il frigorifero o la dispensa, alla zona più pulita, che è il post cottura, diciamo, quindi l'impiattamento. E se non è possibile strutturalmente fare questa divisione, avere in mente una divisione sporco pulita, questo per cioè quanto, di cani d'appoggio. Questo per quanto attiene l'aspetto domestico. Per quanto l'aspetto attiene domestico, l'aspetto invece della ristorazione, questo percorso invece deve essere delineato in questo modo. Sì, sì, nella ristorazione pubblica, specialmente nelle nuove attività, sicuramente deve esserci questo percorso in avanti. Nelle attività in essere, a volte nel centro storico, a volte dove è impossibile ristrutturare, studiando un attimo la situazione, si possono mettere per esempio dei piani mobili, tipo un carrello, che all'occorrenza si può insomma, un piano di servizio che si può utilizzare per creare questo percorso in avanti. Quindi ricordiamoci questa definizione, percorso in avanti, percorso lo dico avanti a me stesso. Sì, una volta stavo in una scuola, stavo spiegando insomma l'igiene degli alimenti in una scuola, e la maestra, dopo, l'ho rincontrata dopo qualche mese, mi ha detto: sa, dottoressa, quel discorso del percorso in avanti mi è piaciuto, io stavo ristrutturando la mia cucina e ho fatto così, partendo dal frigorifero fino al piano per l'impiattamento. E guarda, a questo proposito vorrei dire una cosa che uno non ci pensa mai: quando noi prepariamo i piatti, soprattutto della pasta, del primo, dove appoggiamo le scodelle? Allora, teniamo presente che le scodelle poi le poggeremo nel piatto su cui e dentro cui poi mangeremo. Certo. Quindi appoggiare le scodelle in quella che nella nostra mente o nella pratica della struttura è la zona sporca, fa sì che poi noi trasferiamo questi microbi nel piatto dove mangeremo il secondo. Certo. E quindi io credo che molto molto serva il buon senso. Nel privato, certo, nel pubblico ci sono delle regole che vanno seguite, però nel privato. Vabbè, però i piatti sono belli a casa, senso. Dai. I piatti sono belli. Certo, certo. C'è il servizio che ti hanno regalato quando ti sei sposato. Che poi si consuma. Il giorno si tira consuma, fuori le occasioni. Tira fuori il piombo. Infatti, no, è questo che... Che c'è quel giro nero nel piatto, nel come si chiama, insomma, nello smalto del piatto. O di una tazza, per esempio, e in quel caso vanno eliminati perché sta tirando fuori il piombo che contiene. Infatti io non ho mai capito quando dicono in questa occasione tiriamo fuori il servizio di quando mi sono sposato 20 anni fa, ecco, in questa occasione vuoi proprio una botta. Beh, diciamo la che tra i vari condimenti c'è anche la carica microbatterica, microbiologica, quindi... Vabbè, noi ci scherziamo sempre quando parliamo di queste cose, perché giustamente... Andiamo anche leggera. Sì, altrimenti diventa la troppo lezione, pesante. Se no diventa troppo pesante. E quindi, in sintesi, ti chiedo quali sono quali accorgimenti deve usare il personale invece che è preposto anche nell'ambito della ristorazione pubblica. Adesso ti rispondo, però volevo dire anche un'altra cosa per quello che stavamo dicendo prima dei piatti che poi magari si rovinano. Nei controlli che fa la ASL nella ristorazione, ma comunque dovunque si manipolano, si preparano e si manipolano alimenti, si controllano anche, sempre per tranquillità del pubblico, si controllano gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti, per esempio appunto piatti, padelle che non devono essere rigate, quei cartoni per contenere la pizza sono stati campionati varie volte per vedere se contenevano sostanze nocive, oppure piatti di plastica ma anche di coccio, stoviglie, bicchieri eccetera, quei bicchieri in cui ci mettono il caffè se ce lo portiamo via dal bar, sono stati tutti campionati tutti questi oggetti, mestolini, insomma tutto quello che poi è destinato appunto a venire a contatto con gli alimenti, e si campiona periodicamente e si verifica che corrisponda ma proprio strutturalmente, cioè la ditta che lo fabbrica, se lo fabbrica con tutti i criteri. Quindi per assicurarci degli standard qualitativi, esatto, che esatto, consentano di tranquillamente degustare. Regolarmente sono stati sequestrati coltelli che non rispondevano, piatti che non rispondevano, piatti di plastica che avevano una sostanza colorante che veniva trasferita al cibo, e addirittura le capsule con cui vengono chiusi i vasetti omogeneizzati, le campioniamo per vedere che non cedano cromo alla sostanza che sta dentro al vasetto. Quindi insomma i controlli sono molto capillari. Ma perché spesso vediamo anche in televisione dei servizi che descrivono magari delle realtà, quindi c'è comunque un controllo a monte. Sì, bisogna dire che il controllo è molto approfondito, e qualche rara volta che succede che c'è qualcosa che non va, che fa grande scalpore, bisogna dire che a monte ci sono state centinaia di controlli che tra l'altro impone la Regione Lazio, quindi non è che uno li vuole fare, è la Regione stessa che ci dice di fare tot controlli, e magari su quella grande quantità di controlli poi si trova quello che non va. Ecco, su questo volevo farti un'ultima domanda, poi chiudiamo perché siamo fuori tempo, che purtroppo il tempo è velocissimo e tiranno. Hai detto una cosa, dottoressa, la Regione Lazio, cosa significa questo? Che ogni regione ha un regolamento a sé per l'igiene? No, regolamenti no, però questo non regolamento, però questo discorso di campionare, fare sopralluoghi eccetera è diversificato, perché poi ci sono esigenze diverse, cioè in alcune regioni c'è più bisogno di controllare alcune cose, in altre regioni altre, fra cui l'acqua potabile, ma insomma apriamo grandi capitoli se il tempo è poco. No, era solo per capire, perché parlava della Regione Lazio, pensavo ognuno, che ogni... Ognuno poi ha delle sue specificità da controllare, quindi magari insiste di più in alcuni settori che in altri. Se una zona è più industriale si cercano più sostanze chimiche, se invece è più rurale si cercano più sostanze microbiologiche. Ognuno ha poi le sue. Però dove c'è il peperoncino siamo a posto, siamo tranquilli. Sì, a me non piace, in realtà fa bene. Quindi, scusa, ma avevi fatto l'ultima domanda? No, la domanda così chiudiamo rapidamente. Quali accorgimenti deve usare il personale che tratta alimenti? Guarda, l'accorgimento Intanto io lo continuo a dire, è la buona volontà, l'esperienza, perché lì si evitano tanti piccoli errori sciocchi. E poi ci sono questi manuali di corretta prassi igienica che possono essere eseguiti, e in più i corsi che vengono fatti, in cui si dice, a seconda del tipo di attività in cui si va a operare, che come comportarci. Addirittura sono diversificati, per esempio un cuoco ha un tipo di formazione, un cameriere ha una formazione diversa, l'addetto al trasporto degli alimenti ha una formazione diversa, quindi in base al lavoro che si va a fare si diversifica anche la formazione. Quindi attenersi a quello che è stato insegnato con quel briciolo di buonsenso che fa bene in tutti i quindi settori. Il buonsenso comunque a prescindere deve governare qualsiasi perché uno può insegnare un miliardo di cose, ma se poi manca quel pizzico di buonsenso per metterle in pratica si fanno errori. Allora, dottoressa, a proposito di buonsenso, volevo ricordare una cosa. L'8 e il 9 di giugno, nella sala dell'ex Cinema Esperia a Paliano, l'associazione L'Onda, in collaborazione con la società Johnny & Mary SRL e con il comune di Paliano, organizza il Festival Internazionale di Cortometraggi, corto ma non troppo. L'evento sarà preceduto domani, sabato 2 giugno, da una partita di calcio tra la squadra formata da attori e registi italiani e la squadra formata da amministratori locali. L'evento è stato organizzato per promuovere l'inserimento sociale di persone affette da disagio psichico. Perciò questo è un appuntamento assolutamente da non perdere. La partita si svolgerà alle 10 domani mattina presso lo stadio di Paliano Pierluigi Tintisona. Noi di Radio Onda Libera ci saremo, perché ci sarà anche la diretta praticamente di questo evento. Dunque invitiamo tutti a non mancare, ecco perché insomma il contributo è importante in tutti i campi, vedi? Cioè, certo. Se uno dà il suo contributo, poi alla fine si riesce ad avere, assolutamente, speriamo, una convivenza. Ci sarò migliore anch'io domani, anche con i calzoncini, quindi. Tu fai parte degli amministratori locali? No, ex amministratori locali, ma soprattutto okay, anche perché l'associazione L'Onda che organizza mi vede nelle vesti di presidente, quindi da questo punto di vista ci sarò anch'io. Quindi vi aspetto tutti gli ascoltatori che volessero. No, ti pensavo spettatore. Beh, sicuramente sarò spettatore, perché dopo i 10 minuti sarò spettatore come tutti gli altri. No, però per questa causa invito tanti radioascoltatori a venirci a trovare domani a Paliano, e poi l'8 e il 9 giugno con questi corti che verranno proiettati nella sala dell'ex Cinema Esperia, perché il problema del disagio a tutti i livelli è importante, soprattutto quello psichiatrico, che quest'anno festeggia i 40 anni dalla legge Basaglia. Bene, io ringrazio Stefano, ringrazio te, ringrazio la dottoressa Marcella Farina che ci è venuta a trovare in studio. Grazie ai radioascoltatori che ci hanno seguito. Grazie, sicuramente ritorneremo su questi argomenti dopo la pausa estiva. E adesso a te lascio la parola, ti saluto, ci vediamo venerdì prossimo come di consueto, e un buon fine settimana a tutti i nostri radioascoltatori, a festeggiare domani il 2 giugno la festa della Repubblica con il nuovo governo, visto che temevamo schiere di proteste, domani invece avremo un governo in carica, quindi sempre in piazza si sarà. Buona festa della Repubblica, e per chi vorrà ci verrà a trovare a Paliano. Perfetto, va bene, io vi ringrazio naturalmente per questo appuntamento con Agora in Onda, grazie alla dottoressa Marcella Faina, un saluto a Marco Manfieri, ci sentiamo venerdì prossimo per Agora in Onda, mentre noi tra poco torniamo in diretta qui su Onda Libera.